La nostra liturgia ambrosiana nei giorni di Quaresima ha quattro letture. Sì, quattro perché oltre alle tre letture c'è il Salmo responsoriale, che è una lettura biblica, anche se noi lo consideriamo un po' un fratello minore e non lo degniamo di molta attenzione. E invece io vi suggerisco di dare grande attenzione, perché è parola di Dio, anzi, tante volte è sopraffina, come quello di oggi, il Salmo primo, che sappiamo quasi a memoria, lo cantiamo anche tante volte, no? Beato è l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Io, meditandolo, mi sono soffermato soprattutto che non stai con il consiglio dei malvagi e non stai in compagnia degli stolti, degli arroganti, e mi sono chiesto: ma ci sono delle volte in cui ciascuno di noi sta in compagnia dei malvagi? Beh, proprio malvagi, malvagi no. In compagnia degli stolti speriamo proprio di no. Però mi son detto, tutte le volte che noi ci troviamo a parlare inutilmente degli altri, cadiamo dentro anche noi in questa trappola. Non solo, mi sembra che tutte le volte che noi perdiamo tempo davanti alla televisione, a quelle trasmissioni seriali che fanno dozzinali, noi perdiamo tempo, siamo in compagnia degli stolti. Tutte le volte che non sappiamo staccarci dai notiziari ripetitivi, noiosi, contraddicenti, noi siamo in compagnia degli stolti. Allora, se noi riusciamo a rinunciare, per esempio, in Quaresima a tanta televisione, guadagneremo tempo per stare in compagnia dei santi. Io vi auguro che abbiate in casa vostra, se no vi posso aiutare io a cercarli, dei libri dei santi, magari anche dei filmati dei santi. Adesso ridiamo, ma anch'io tutte le mattine devo fare un bel po' di ciclette, se no le mie articolazioni vecchie non si muovono più. E io vedo su YouTube, vedo la vita dei santi. Attualmente sto vedendo un filmato su Santa Teresa di Gesù Bambino, poi ne ho visti altri su Santa Rita e su altri così. La vita dei santi, amici, è stare in compagnia dei santi. Coraggio, vi auguro di prendere in esame, soprattutto in Quaresima, quello che dobbiamo rinunciare e quello invece che dobbiamo approfondire, la vita dei santi e la vita dei salmi. Io vi auguro di imparare a trovare i salmi belli. Ce ne sono alcuni un po' difficili, alcuni anche un po' per noi difficili da capire, ma ce ne sono altri che sono meravigliosi. Nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte.